Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Introduzione alla tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Notte tredicesima. Già Febo aveva queste parti nostre abbandonate, e il lucido splendor del giorno erasi già partito, né più cosa alcuna manifestamente si conoscea, quando la signora, uscita di camera, con le 10 damigelle andò fino alla scala, ricevendo lietamente la nobil compagnia, che già di barca era smontata, e postisi tutti a sedere secondo i loro gradi, disse la signora: «Mi parrebbe cosa convenevole che, dopo fatti alquanti balli e cantata una cancione, tutti, sì gli uomini come le donne, dicessero una favola, perciò che non è onesto le donne aver solamente questo carico. E però, piacendo tuttavia a questa onorevole compagnia, ognuno racconterà la sua, con condizione però che breve sia, a ciò che questa ultima sera di Carnesale tutti possiamo favoleggiare. E il signor ambasciatore, come persona principal tra noi, sarà il primo. Indi di uno in uno seguiranno gli altri, secondo gli ordini loro. Piacque a tutti il consiglio della signora, e poscia che ebbero fatte alcune danze, la signora comandò al trevigiano e al molino che accordassero i loro strumenti e una canzonetta cantassero, i quali, figliuoli d'ubbedienza, presero i loro liuti e la sequente cancione cantarono: «Donna, quanta bellezza e leggiadria, giamai fu in alma pura, tutta la posi in voi gentil natura. S'io miro nel bel viso, la bellissima gola e il bianco petto, nel qual si regge e si vaneggia amore, dico nel mio concetto: siete creata certo in paradiso e mandata qua giù a far onore al secol nostro e trarlo fuor d'errore e mostrar quanto sia, dopo molto girar di caldo e gelo, la gloria dei beati su nel cielo». La canzone dal trivigiano e dal molino cantata molto piacque, e a pieno tutti la commendarono. Fine dell'introduzione alla tredicesima notte. Registrazione di Roberto Cofini.